finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. Siamo tornati, 22:51 minuti primi sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Da tanto tempo non ci sentivamo con tutte e tutti voi. Sarà una mesata giù di lì, insomma. Però, vabbè, un po' non potevamo venire, un po' eravamo in difficoltà a venire, un po' ci siamo riposati. E un po' ci siamo riempiti d'ira. Perché questo mondo, questo modo di andare le cose, di far andare le cose, ci fa profondamente incazzare. Così, mentre il mondo sfugge pian piano e scivola verso il conflitto mondiale in cui già stiamo dentro, non lo sappiamo, ma poi così verrà descritto nella storia, comunque vada. Se finiremo arrostiti oppure se continueremo incredibilmente a sopravvivere come parassita del pianeta, specie umana, ovvero se riuscissimo a ravvederci senza per questo essere apocalittici, insomma, non lo sappiamo. Però per ora mandiamo musichette e poi vediamo, perché siamo belli carichi. Dopo un mese, ma adesso ci stanno gli influencer, gli youtubers, e noi invece dalla radio parliamo da tanto tempo, cerchiamo anche di connettere col cervello, di connettere il cuore e il cervello. E una volta, non dico che eravamo i soli, non dico che eravamo gli unici, ma insomma, era un po' un privilegio poter parlare ai microfoni di una radio che veniva ascoltata non da tutto il mondo, come succede adesso, potenzialmente, ma da tanta gente che ascoltava la modulazione di frequenza. Le tecnologie hanno fatto quello che dovevano fare. Oggi la radio, anche Radio Onda Rossa, è uno strumento differente. Speriamo che sia sempre uno strumento, come lo è anche oggi, di comunicazione delle lotte che si fanno in giro. Per far questo, ovviamente, abbiamo bisogno del contributo di tutte e tutti voi, che non ci avete mai fatto mancare contributo, come diciamo spesso, che va a intendersi nelle più, il ventaglio più largo di ipotesi, appunto telefonarci, chiamarci, fare corrispondenze, inviarci comunicati, contribuire al dibattito della radio. Va tutto bene, va bene anche che ci mandate qualche soldino, Ogni tanto, ora che la campagna di radio abbonamento è finita, la festa della radio molto partecipata ormai è un ricordo del passato, quindi non dimenticate che Radio Onda Rossa continua a pagare le bollette anche nei mesi estivi, e quindi quando avete, quando potete, sottoscriveteci, ci sta sul www.ondarossa.info, il sito della radio, ci sta l'apposito tastino sostieni, ci sta scritto tutto là dentro, conti correnti, bancari, postali, eccetera eccetera. Vi ricordiamo il 61804001, il numero di conto corrente postale di Antestella Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185 Roma San Lollo. Vi ricordiamo inoltre il la casella di posta elettronica della redazione della radio Onda Rossa, @ondarossa.info, la mail del sottoscritto 25 o'clock scritta a numero @ondarossa.info, 0649 1750, recapito telefonico della radio Wire. Dicevamo Wire, K.O., singolo K.O. Il post rock degli anni 70, forse primissimi anni 80. Da capo, perché poi dobbiamo farvi ascoltare Roberto Falconieri, che è andato via poco fa dalla radio, anche perché poi ci abbiamo una piccola comunicazione al suo riguardo da fare. Piccolo appuntamento. Wire da capo, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. 23.05, minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda Roma nel Laziale, e poi ancora in DAB da Roma, Terni, Perugia, e poi ancora nel web www.ondarossa.info, il sito. E abbiamo iniziato da dove avevamo concluso l'ultima volta, e cioè... mercoledì 4 giugno in collaborazione col Fantasma. Con cui peraltro abbiamo preventivato un nuovo intervento in quel di 25 o'clock a Radio Onda Rossa. Mentre aspettiamo anche una sua relazione del concerto che... di Lily Flame che c'è stato a Bomarzo. Non sappiamo se in mezzo ai mostri, ma insomma crediamo proprio che l'atmosfera nel parco di Bomarzo per ascoltare Lily Flame possa essere stato un, come si dice, una location, come siamo a moderni. E a proposito di modernità, appunto, dicevamo, abbiamo iniziato da dove avevamo terminato, o quello che avevamo iniziato il 4 di giugno scorso, e cioè post-punk. Di quello delle origini, che era un pre-punk addirittura, insomma, dal momento che Wire e Drying Cots sono due band del 1976, quindi la primissima ondata punk, ma che immediatamente proprio si staccarono direttamente da quelli che erano gli stilemi della dissacrazione, per prendere appunto immediatamente un loro stile, una loro fattura che ricorda più la wave o quello che sarebbe stato poi il dark. O comunque una caratteristica del tutto peculiare da poter essere catalogata nel post-punk. E quindi abbiamo ascoltato Single K.O. Per quanto riguarda i Wire, dal loro lavoro del 1900, terzo lavoro 1979, 154, e poi The Raincoats. Invece il disco era del 1981, Odd Shape. E la traccia che abbiamo ascoltato era Dancing on My Head. Invece, come da un po' di tempo a questa parte, viene a trovarci Roberto Falconiere, prima dell'inizio della trasmissione, ci porta a mano che registra, quindi online, proprio in diretta, qualche giorno più tardi, in questo frangente, dato che non abbiamo trasmesso per un po', l'abbiamo fatto attendere, comunque primizie assolute in 25 o'clock a Radio Onda Rossa, le ultime registrazioni di Roberto Falconieri. Se volete avere informazioni di più su questo musicista, potete ascoltare, andare a cercare su ondarossa.info le puntate che abbiamo fatto con lui. Un paio di telefonate in diretta, una presentazione del suo ultimo lavoro completo. Fight 55. 74 è il titolo della traccia registrata al Plastic Studio di Roma. Con una collaborazione importante, quella di Gianfranco Continenza, che appunto in, diciamo proprio con lui, in uno spazio come quello di 25 O'Clock, abbastanza distante da certi stili e comunque dalla scena jazz fusion, potrebbe non dirci nulla. Invece Gianfranco Continenza è un chitarrista di grande pregio, appunto jazzista, peraltro molto noto nella scena, appunto. I want to see that union from the che ha regalato appunto in questo 55-74 l'assolo di chitarra finale. E per ultimo andiamo a dire che appunto stiamo organizzando, non sappiamo se già dalla prossima settimana o magari un pochino più in là, un live più o meno acustico con Roberto Falconieri qua negli studi della radio. Vediamo adesso quando riusciremo a concludere e a organizzare la cosa. Comunque, al momento ci ascoltiamo questa 55-74. Roberto Falconieri, Radio Onda Rossa, 25 O'Clock. I saw a rainbow gonna be back in 55 74? No, back in 55 74. No, no, back in 55 74. 23:21 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa, questo è 25 o'clock, 87.9 della banda romana e laziale. E poi in dub. Da Terni, Perugia, Roma, www.ondarossa.info per ascoltare in streaming. Quanto si blatera durante la notte del mercoledì. E dopo le Raincoats, dopo Roberto Falconieri, come primizia, proprio nel 1981, la giovane Kim Gordon andava a vedere a New York, credo. Non ricordiamo esattamente, comunque c'era proprio la presentazione della ristampa del disco Le Raincoats, scritta proprio da Kim Gordon. Invece addirittura un po' di anni prima, visitano New York City nel 79 o nell'80, nemmeno lei se lo ricorda, in un piccolo caldo club. In downtown. E suonavano appunto gruppi come It Is Spy, Theoretical Girl, I Pants, DNA e molti gruppi anticipatori della scena inglese come pop group The Slits, Assertian Radio, eccetera. In queste notti che furono misteriose, solitarie ed esilaranti, io amai le Slits perché se mancavano appunto di suoni commerciali e suonavano una musica straordinaria. Poi dopo di loro seguirono appunto le Raincoats, ma era molto tardi e avevano, contrariamente alle Slits che erano solamente una band femminile, anche le Raincoats oneste ovviamente lo erano, ma ci avevano in quell'occasione due batteristi maschi. E lei rimase molto impressionata, insomma, comunque del suono delle Raincoats e, diciamo, giustapponendo appunto i due dischi delle Raincoats, il primo disco dei Sonic Youth del 1982, non si può non notare l'influenza che i primissimi Sonic Youth hanno avuto per il suono sgangherato delle Raincoats. l'altro Sonic Youth, primo disco appunto dell'82 dei Sonic Youth, che possiamo usare il termine adorare, noi adoriamo. Repeat the lie. 23 e 36 minuti primi, le frequenze di Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda nome laziale, e ancora in dub da Roma, Terni e Perugia. Mentre sono girate dopo gli Sonic Youth degli albori, le note di Excellent Italian Greyhound, disco del 2007 per quanto riguarda gli Shellac, da cui abbiamo tratto la quinta traccia, Genuine Lullabelle. E poi di seguito dalla colonna sonora di Peaky Blinders, Anna Calvi, da cui abbiamo ascoltato la dodicesima traccia, che si chiama Rubia's Fever. Tredicesima traccia che manca, è sempre indicata come dodicesima, Jail and Perfume, che state ascoltando sotto la nostra voce. Questo per dire. O per non dire, per essere parchi ancora di parole che potrebbero essere, poi che potrebbero ritornare a essere fuorvianti. Crediamo che questa sia questa società della finanza, essenzialmente questo occidente finanziario che ha influenzato tutto il mondo, questa sua finanziarizzazione, cioè messa in, almeno così noi la pensiamo, non vogliamo che sia poi così qualcosa di assoluto, di esclusivo. Vogliamo mancare di rispetto a chi gioca con l'economia, chi vive di economia, chi studia l'economia e che crediamo vada messa su un altro piano rispetto alla finanza, mentre diciamo che negli ultimi decenni, in cui lo studio dell'economia è diventato, così, per quanto sia una scienza bella e interessante da comparare con tante altre scienze, intese non nel termine di scientismo, ma intese come studio, come ipotesi, come verifica in un processo cognitivo. Ecco, anche lo studio dell'economia si sia appiattito sulla finanza. Finanza intesa in senso moderno, e cioè camuffamento, rimescolamento delle carte, gioco con i numeri. La finanziarizzazione dell'economia ha portato alla finanziarizzazione della produzione. La produzione ha preferito essere di carta, allorché essere di materia. I numeri sono passati da voluminosi volumi contabili, interpretabili solo da esperti, a bei grafici prodotti invece su Adobe e su altre su altri strumenti informatici, così plasmabili per tutti. E quindi alla smaterializzazione del lavoro, al lavoro sui numeri, sui grafici, sui fogli, le tabelle digitali. Un processo lento ma progressivo, senza essere mai messo in discussione, perché funzionava. E siccome tutto questo processo era interesse di una legge fondamentale, che è una legge di autonomizzazione del capitale, o quella che veniva scritta tanto tempo fa come sussunzione al capitale. Ogni aspetto della vita umana è stato finanziarizzato. E la vita umana stessa. È gioco, è merce. Di questa economia di carta. Ogni aspetto. E date queste aspre considerazioni, noi preferiamo ascoltare cose belle. Onda Rossa 25 o'clock delira. Don't let it 53 minuti primi non andiamo da capo, perché inizia da paura sta roba, ci ha ammagliato. Dopo grandi classici della storia di 25 O'Clock, se conoscete sapete, se siete di una certa età insomma e avete sopportato queste ore della notte e anche queste temperature, sapete. E quindi vi ricordiamo che avete ascoltato dopo Anna Calvi e dopo gli sproloqui del sottoscritto, Nanti Day Man con la loro Silver Snow, Pilot Scott Tracy con Mother Mary, e adesso sotto la nostra voce King Anna. Scared. 2024, finalmente siamo arrivati a un po' di tempo fa. Vi porteremo qualche chilo di plastica, magari con la nuova stagione radiofonica. Per ora abbastanza, più o meno andiamo in giro con la plastica vecchia. A proposito di economie di carta ed economia di materia, anche se alla fine questa roba qua sono bit incisi sopra una pellicola finissima, sottilissima di alluminio, manco la plastica vera. Comunque King Anna, All Behind Being Fine, da capo Radio Onda Rossa 25 O'Clock. 59 minuti, cioè alla mezzanotte, mentre fanno il fade in sotto la nostra voce, io la tengo. Ci risuona nelle orecchie, nel cervello, questo I'll be fine. Va tutto bene. E ci ritorna anche nella mente quello, per ora va tutto bene. Sto cadendo, ma per ora va tutto bene. I see white signs, I see stones and trees. I sit here far from you. I see something, the game lost again. Proprio quella, la famosa frase dell'odio, il film del 2000, del 1995, è ritornato nelle sale nel 2024, l'odio di Matej Kassovitz. È la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. A ogni piano, mentre cade, l'uomo non smette di ripetere: fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene. Questo per dire che l'importante non è la caduta, ma l'atterraggio. Di 30 anni fa, profetico. L'odio. E forse in tutto quel gioco di finanziarizzazione, di smaterializzazione, disumanizzazione, snaturamento. Non poteva che essere uno il sentimento che sarebbe prevalso, e cioè l'odio. Yeah, man. Obviously, we're seeing some fucked up things happening in the world. And, you know, we're seeing the UK and the US be complicit in war crimes and genocide happening over there to the Palestinian people. And, you know, I know we're on the BBC, that we're not going to say anything crazy, all right, though. Leave that for them lads, you know what I mean? But we have seen, unfortunately, a strange reaction to people that come out and voice support for Palestine, even though anybody with any kind of moral compass can surely tell that what is happening over there in Gaza is a tragedy. So look, we're not pacifist punks here over at Bob Villain Enterprises. We're not pacifist punks. We are the violent punks. Because some... So yeah, man. Riprendiamo, perché qui dice proprio, noi non siamo pacifist punk, noi siamo violent punk. We're seeing the UK and the US be complicit in war crimes and genocide happening over there to the Palestinian people. And I know we're on the BBC, that we're not going to say anything crazy, all right, though. Leave that for them lads, you know what I mean? But we have seen, unfortunately, a strange reaction to people that come out and voice support for Palestine, even though anybody with any kind of moral compass can surely tell that what is happening over there in Gaza is a tragedy. Capito? We're not pacifist punks here over at Bob Villain Enterprises. We're not pacifist punks. We are the violent punks. Because sometimes you've got to get your message across with violence, because that is the only language that some people speak, unfortunately. This next song, we il linguaggio che ognuno, ogni gente parla. To speak up to the, for the Palestinian people and speak against the crimes that Israel, the UK and the US and much of the Western world are complicit in. So this is for all of you, like, this is for Murder Capital, this is for Kneecap, this is for Ammo and the Sniffers. Every single band out there using their platform to speak up for the Palestinian people. Because we must pray, hope and wish to see a day where the Palestinian people are liberated and free from the tyranny of the Israeli government. Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Free Palestine each and every single time. This is Pretty Songs. E se lo son meritato un pezzo. Loves it. His man. The hands that cook it. Bob Dylan. Never harm in looking. Take him any. Questo era il loro annuncio. Spain again, the lads just made it. Presso il Glastonbury Locals, drunken scuffling festival. And nobody can tell him nothing. Dancing round the Bob Dylan. His feet are shuffling as he makes obnoxious phone calls. Trying to get the drugs in. What do you reckon? One or two? Get a few. What's the plan? Just another day in the life of a big dumb man. Yeah, he's a man. Yeah, he's a proper manly man. You little boys just really wouldn't understand. Yeah, he's a man. Yeah, he's a proper manly man. You little boys just really wouldn't understand. Sunday roast. Choking down some gammon. Yum. All these rules, things he can't say, he just can't understand them. Misses the days when he could count on Clarkson, May and Hammond. Now it's only mediocre gear that he can get his hands on. Hey. Past the Queen, on the way up his nose. Dearest old Elizabeth, may God save her soul. Said the fabric of this country consists of silk and gold. Who cares if it was stolen? You should just ignore the holes. Now what do you reckon? One or two? Get a few. What's the plan? Just another day in the life of a big dumb man. Yeah, he's a man. Yeah, he's a proper manly man. You little boys just really wouldn't understand. Yeah, he's a man. Yeah, he's a proper manly man. You little boys just really wouldn't understand. Yeah, he's a man. Yeah, he's a proper manly man. You know, a proper man, a proper manly man. Say something he don't like, then all his toys are out the pram. But that's a man, innit? Yeah, that's a man. I think he's a proper manly man, you know, a proper man, a proper manly man. The G-spot don't exist, mate, that's just feminist propaganda. Yeah, he's a man. Bob Dylan, e quindi questo è Hunger Games, tratto dal loro ultimo lavoro del 2024. E per anticipare un altro. Un altro uomo di colore che si è esposto. Spin the wheel for a deal. You might win a hot meal. Hey, what's all the talk about? E per quanto riguarda appunto la diretta da Glastonbury, per quanto riguarda Bob Dylan, ci stava, insomma, era una roba in qualche modo preparata in un festival con tante bandiere della Palestina. Deve uscire questo ribollire di rabbia, di percepita ingiustizia. Una roba che bolle sotto la cenere. Una lava calda che deve trovare una via d'uscita di fronte a allo sterminio, al genocidio. Ma chemical concoctions, the kids aren't all right. We... Ma occorre avere un punto di vista un po' più particolare, un po' più esterno, un punto di vista che non solo noi abbracciamo in tutti i sensi, ma che da un certo punto di vista ci fa piangere, ci fa esultare, quasi fosse veramente una verità. E sta lì e non riusciamo ad afferrare, a dire con le parole. E questo ci è riuscito un ragazzo, un uomo, ormai non più un ragazzo, il figlio di Fela Kuti. Ancora un... musicista di afrobeat di jazz. Si chiama Sankuti. Sankuti è riuscito a dire delle parole molto semplici, ma che non hanno quell'idea delle parole finanziarizzate dell'Occidente. You are more than your take home pay. E che non sono la banalità del male, come dire, ma I know. You are more than your ability to earn. You are more than your future successes. You are here. You are now. La banalità della vista di quello che si vede, di quello che è là davanti agli occhi di tutti e che però di qua dal confine noi riusciamo così a percepire, a vedere, così pieni di sé, così pieni della nostra tracotanza, della nostra posizione. E quindi questo è quello che ci dice o dice in un concerto in Europa Sankuti. But I have an advice for young people in Europe. I know you want to free Palestine, you want to free Congo, you want to free Sudan, you want to free Iran. Aspetta, rimandiamo da capo. Dice che noi europei, insomma, vogliamo la libertà per la Palestina, vogliamo la libertà per il Congo, vogliamo la libertà per l'Iran. Dice da capo, lo rimandiamo, ve lo risentite. From right-wing extremism. But I have an advice for young people in Europe. I know you want to free Palestine, you want to free Congo, you want to free Sudan, you want to free Iran. It's a new one every week. Ce n'è una ogni nuova settimana, But I have an advice for young people in Europe. I know you want to free Palestine, you want to free Congo, you want to free Sudan, you want to free Iran. It's a new one every week. Free Europe. Right-wing extremism. Free Europe from fascism. Free Europe from racism. Free Europe from imperialism. When you do this job, as soon as you do this job, Gaza will be free. Congo will be free. Sudan will be free. Iran, forget about us. Don't worry about it. Free Europe. Capito che ci ha detto questo? Sei un cuti. Mentre parte Pavel sotto la nostra gente, tra la gente, appunto, Sankuti ci ha detto banalmente: voi andate dicendo che volete la libertà per la Palestina, la libertà per il Congo, la libertà per l'Iran. Però voi dovete fare un altro lavoro. Dovete fare un lavoro per la libertà dall'estrema destra, delle ali destre dell'Europa. E quando diceva estrema destra, ali destre dell'Europa, non era così banale, non era quello che pensate, non era quello noi ci salviamo perché noi siamo quelli di sinistra, no. E poi ci dice: dovete liberare l'Europa dal fascismo. E già chiarisce meglio, cioè il fascismo, ce l'avete dentro il fascismo. Cerca del lusso. E poi ci dice: dovete liberare l'Europa dal razzismo. e poi ci dice: dovete liberare l'Europa dal dall'imperialismo, che è una conseguenza diretta del fascismo che ci avete dentro, come l'imperialismo. E poi ci dice: quando voi avete fatto questo lavoro, cioè liberare l'Europa da tutta questa roba qui, allora vedrete che la Palestina sarà libera, il Congo sarà libero e l'Iran sarà libero. Centrifugato artificiale distillato dalle poche di originali. Capito che ci ha detto sto ragazzo? Dico proprio, ci ha detto, a noi ce l'ha detto, l'ha detto in un concerto. Veleno, veleno. Veleno, Pavel, tra la gente, da capo. Bisogna svegliare e izzare quel fuoco tra la gente, perché qui c'è ancora un mondo. Com'era quella storia? Bisogna lottare nel proprio paese per essere internazionalisti e internazionaliste. Dimmi quanto vale, dimmi quanto costa, qualcosa. person, fuck them at school. All I know is that there were there were rumors he was into field hockey players. There were rumors. So I applied, basically. He was gone the next day. I went out for the team. It's like, he was gone. They just, like, it was, like, so hush-hush. They were so quiet about it. And then the next thing you know... 0 33 minuti primi non potevano essere che i geniali Devo. Divo che diciamo facevano girare tutto il discorso della nuova musica rispetto al concerto della The Evolution. Evoluzione, teoria secondo la cui l'umanità invece che continuare ad evolversi avrebbe cominciato a regredire, come dimostrerebbe la disfunzionale le disfunzioni e la mentalità gretta della società statunitense. La teoria era frutto dello scherzo fra Casale e Lewis, nato nella fine degli anni 60, quando i due frequentavano la Kent State University. Però non è nato alla fine, non nato nella fine, nato alla fine, che c'entra nato da questi, lo più vecchio. Cominciano a suonare nel 72, Divo. Visionari, dicevamo. Ci siamo ascoltati Good Feeling. Teoria questa, appunto, alla fine, nata alla fine degli anni 70, 60, quando andavano a scuola insieme. Gerard Casale e Bob Lewis. E dicevano, attenzione, alla fine degli anni 60 la società umana si stava de-evolvendo, quindi era finito il processo evolutivo, come dimostrerebbe le disfunzioni e la mentalità gretta della società statunitense, cioè quando c'era Nixon, non so, penso, credo, fino agli anni 60, Kennedy era morto, insomma, sì. Vabbè, insomma, non siamo così preparati nella storia degli Stati Uniti, occorrerebbe dare un'ulteriore occhiata a Wikipedia, non lo facciamo per non appesantire troppo. Però, insomma, quello che volevamo dire allora... così se adesso, cioè, dato che sono in attività, vorrei capire adesso. Bob Lewis praticamente basta, non c'è più da tempo, dal 76 proprio all'inizio. Comunque Gerard Casale è ancora lì alla voce di Divo. Vorrei capire che cosa pensa oggi della mentalità gretta americana all'epoca di Arcarota. Dropkick Murphys, che ci dicono quasi come un così a ricordarci che contro inno presigla, però non è proprio presigla, perché non vi aspettate che la finiamo qui questa sera, Never get drunk, non mi ubriacherò mai più, cosa che disattendiamo anche senza bere, Da Pink Murphys, sempre questa mandiamo. This machine still kill fascists. It's a long old time in a hard rock jail. It's a long old time gone by. E infatti non è questa. Never get drunk, la quarta, vai. Thank you. Texas jugger drinking juice, all busted on the wall. I'll stay sober the rest of my days, never touch the stuff at all. I'll never touch the stuff at all. How many times you promised me you'd never drink that juice? Well, I've learned 5,000 times or more to trust you ain't no use. To trust you ain't no use. I'll never get drunk no more, my love. I'll never get drunk no more. I'll never walk into that barroom door. I'll never get drunk no more. I'll never get drunk anymore. Oh, please, my dear, open up your heart and open up your gate. Open up your door so locked and barred. Please give me one more day. Please give me one more day. 10 million times you broke my heart with a bottle. I wanna make love to my man. I'll never get drunk no more, my love. I'll never get drunk no more. I'll never walk into that barroom door. I'll never get drunk no more. I'll never get drunk anymore. Oh, please, my dear, open up your heart and open up your gate. Well, my doors are locked and you are barred. You ain't getting no more days. You ain't getting no more days. I'll never get drunk no more, my love. I'll never get drunk no more. Walk into that barroom door. I'll never get drunk no more. I'll never get drunk no more, my love. I'll never get drunk no more. I'll never walk into that barroom door. I'll never get drunk no more. I'll never get drunk anymore. Okay. We can fly. We can fly. Fly. Baby. Baby, fly. 53 minuti dopo la mezzanotte a sfumare. Chiavi Corporation, il primo loro lavoro. Appunto, a sfumare, che ci frega sotto la nostra voce. Sound for Chiavi Hi-Fi. La corporazione dei ladri. 38, 45, ladri di stile, ladri 38, di collaborazioni. 38, ladri perché ci riprendiamo quello che ci è stato tolto. E intanto vi andiamo a dare un po' di annunci per quanto riguarda il futuro, che se non è proprio di domani è di dopodomani. E cioè Roma messa a fuoco, una chiamata fotografica aperta a tutti per esporre le tue foto il 4-5 ottobre al festival Interferenze Costruttive, organizzato da Radio Onda Rossa al centro sociale occupato e autogestito La Torre. Partecipa inviando 3 foto orizzontali A4 a ondarossa@ondarossa.info con il soggetto Roma messa a fuoco entro e non oltre il 5 settembre 2025. Roma messa a fuoco è una chiamata fotografica per raccogliere visioni e racconti personali su questo ultimo anno in città, uno sguardo sulla realtà che ci circonda, immagini lontane dalle cartoline giubilari, istituzionali e mainstream che rappresentano invece la trasformazione, devastazione, gentrificazione, speculazione, repressione, cementificazione della metropoli e che spostano il fuoco sugli spazi, zone, quartieri, lotti che oggi continuano a resistere a questi processi. Partecipando a questa chiamata potrei essere parte della mostra fotografica collettiva ed esporre le tue foto il 4-5 ottobre durante la prima edizione del Festival Interferenze Costruttive organizzato da Radio Onda Rossa presso il centro sociale occupato e gestito La Torre. La partecipazione è aperta a tutti e prevede per ciascuna partecipante la realizzazione di 3 fotografie orizzontali che dovranno essere inviate tramite email all'indirizzo andalusse@andalusse.info per oggetto Roma messa a fuoco entro il 5 settembre 2025. Per garantire una continuità nell'allestimento saranno accettate soltanto foto orizzontali stampate su foglio formato A4. La stampa è a cura di ogni partecipante. Il 5 ottobre 2025 arriva la prima edizione del Festival Culturale Onda Rossa Interferenze Costruttive, ospitata dal centro sociale occupato e gestito La Torre. Sarà un'occasione di incontro e confronto oltre i microfoni della radio per raccontare e confrontarci con le realtà in lotta e le compagne prese prenderci un tempo di riflessione collettiva e immaginare insieme pratiche di resistenza, laboratori, tavole rotonde, presentazioni, mostre fotografiche e molto più. Intanto segnala la data e piano piano sveleremo i dettagli, insomma Interferenze Costruttive il prossimo autunno. Mentre appena cominciata l'estate godetela in tutta la sua magnificenza calorica. Noi facciamo quello che si fa ogni sera, cioè ogni notte. Diamo appuntamento a dopo. Che vi avrà tenuto compagnia la compagna automatica IMUS con le sue selezioni musicali e le sue bizzarre alternanze con i podcast di Radio Onda Rossa, le varie repliche. Appuntamento in diretta di nuovo alle 8 di domattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, rassegna stampa cittadina. fino a circa alle ore 10, quando si proseguirà con i redazionali della radio. Fino alle 12.30, perché alle 12.40 va in onda la replica di Impatto. Alle 13.45 è il momento di tutta scena cinema, fino alle 14.45 quando forse inizierà, se non ho ben capito male, l'ultima puntata, spero di non dire amenità, di Disabilità Punti di Vista, a seguire la Schiena del Sole 17 e 18, Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Onda Rossa, e I Notte Bus Pallide 21.45 e 18.45, e infine a chiudere I Cuginetti d'Apostasia. Prendete il palinsesto per quello che è, ci potrebbero essere già cominciare a essere qualche replica al posto delle trasmissioni in diretta, non ne abbiate a male, ci potrebbero essere anche delle rettifiche delle entrate, insomma questo è quanto recita il palinsesto ufficiale della radio, ma cambiamenti ci potrebbero essere, come sempre una radio autogestita come Radio Onda Rossa. Quello che non cambia, non manca e non terminerà sarà il nostro saluto più importante a tutti e tutte coloro che ci hanno costretto, che ci hanno ascoltato, costretti a condizioni di libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti. A loro va il nostro più rinfrescante abbraccio. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, che votica fa. Mercoledì prossimo ci saremo, il mercoledì successivo no, poi ci saremo verso la fine di luglio e forse pure, insomma, prima che chiuda la radio, dai, qualche cosa si fa. Dai. our dreams, I'll share our dreams under a communist.